9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 10 di giugno. Il 10 di giugno è una data che nella storia italiana ha un significato, lo ricordo sempre, molto negativo, e siccome festeggiamo il 150esimo dell'unità, ma è un bene anche ricordare che ci sono delle date evocative. Il 10 giugno, lo ricorderete molti di voi, è la data dell'entrata in guerra nel 1940, il secondo conflitto mondiale, uno dei più tragici errori del fascismo, una delle conseguenze più drammatiche che purtroppo del regime autoritario. Quello che ne venne al paese fu un impoverimento terribile, centinaia di migliaia di morti nella seconda guerra mondiale, che poteva essere e doveva essere evitata, e poi quella fu la premessa per uno strepitoso quindicennio tra il 46 e il 61 in cui l'Italia fece il più di quello che ha fatto in 150 anni, cioè realizzando in quei 15 anni, grazie a una generazione straordinaria, un strepitoso salto in avanti. Salto in avanti di cui la domanda è: ma l'Italia oggi è ancora capace? Ecco, oggi questa puntata ci occupiamo di concludere la riflessione nell'ambito della versione di Oscar dedicata ai quattro quesiti referendari che sono al vostro esame domenica e lunedì. Ho scelto, per evitare obiezioni secondo me fondate, poiché nella mia natura sono contemporaneamente conduttore di questa trasmissione e presidente di uno dei comitati per il no sui due quesiti sull'acqua, il comitato Acqua Libera Tutti, ho scelto ieri dichiaratamente di lasciare l'intero era puntata a Ermete Realacci, lo avete sentito, che sostiene la posizione dei sì nei referendum sull'acqua, come nel quesito sul nucleare, come sul legittimo impedimento, per poi alternare oggi una puntata in cui, come ieri, solo lui, lo avete sentito, senza che mi sia permesso di dire alcunché, al di là del fatto che poi lo stimo personalmente, lo conosco da molti anni, ma senza che mi sia permesso di dire alcunché, solo lui ha risposto alle telefonate degli ascoltatori, oggi dichiaratamente, non tanto come conduttore, ma per una volta come ospite unico a nome della posizione del no sul nucleare e sui due quesiti sull'acqua, rispondo io alle vostre domande, che spero siano numerose. Quindi 800 24 00 24, ricordo a tutti anche il numero per i messaggi SMS 349 238 6666. Dichiaro preventivamente, prima di iniziare con le telefonate che sono già in linea, la mia posizione. Io primo andrò a votare nei referendum. Capisco coloro che sostengono, è giusto, che secondo la Costituzione è pienamente legittimo non andare a votare. Capisco chi sostiene che in realtà, se non si è favorevoli alle tesi dei proponenti, la cosa migliore è astenersi. Io non condivido questa posizione, poiché sono un radicale libertario, non perdo ogni occasione che mi viene offerta per esercitare la democrazia diretta. Sono addirittura favorevole all'estensione del referendum, ai referendum propositivi alla Svizzera. Vorrei che contasse di più la voce dei cittadini, perché lo Stato si permette di decidere al nostro posto. Quindi io andrò a votare e mi batterò per tre no, i due quesiti sull'acqua e quello sul nucleare, e sul legittimo impedimento, a coloro a cui possa interessare invece voterò sì, e voterò sì non tanto perché non sia favorevole a tutele particolari, quanto perché il mio giudizio è radicalmente, oramai definitivamente avverso alla maniera in cui, invece di darci una riforma della giustizia, 17 anni di centrodestra si è occupato solo di questioni personali. Questa è la mia opinione, ma quello che conta per me sono i quesiti sull'acqua e sul nucleare. Sentiamo innanzitutto i primi ascoltatori. Cominciamo con Francesco, che chiama da Perugia. Prego Francesco. Buongiorno dottor Giannino, io telefonavo in merito appunto ai referendum, volevo dire che sono un suo grande estimatore e volevo anche dirle che mi trovo, pur essendo elettore di destra, perfettamente d'accordo con lei, e quindi domenica andrò a votare e voterò tre no ed un sì. In particolare, tecnicamente volevo parlarne, essendo un docente di economia dell'ambiente, della questione relativa al referendum sull'acqua, in quanto in questa campagna referendaria nessuno ha detto, ma proprio nessuno, che la maggior parte dell'acqua, buona parte di quest'acqua, viene consumata per usi industriali ed usi agricoli senza alcun controllo dal punto di vista tariffario, e ciò implica ovviamente un dispendio enorme di quest'acqua, e quindi ben venga una privatizzazione, un contributo privato, in modo che si arrivi a una tariffazione decente e ad un sfruttamento non eccessivo di questa risorsa. Questo era quello che io intendevo dirle. Sono, naturalmente non ho risposta da dare, se non per dire che sono completamente d'accordo con lei. È arrivata una prima raffica di SMS di ascoltatori che sono molto critici verso la mia decisione di andare a votare. Ne leggo alcuni: meglio camerieri che furieri dell'esercito di Stalin, ma perché andare a votare se si vuole vincere, si deve vincere in 11 contro 11, andare a votare vuol dire giocare in sé la regola del gioco, ma non sono d'accordo con lei. Finalmente anche Giannino dicendo che va a votare per il referendum farsa è diventato un idolo della sinistra. Vede Giannino come basta poco per diventare dei beniamini della sinistra. Perfetto, io non critico le vostre legittime critiche, non mi interessa il ragionamento beniamino di chi e di cosa, a me interessa battermi per un paese in cui sulle questioni di fondo come quelle energetiche, dell'acqua, dei servizi pubblici locali, sia possibile affrontare nel merito un dibattito serio, e io mi batto per le tesi di cui sono legittimamente convinto. Questo paese per crescere meglio ha bisogno, guardando all'esperienza comparata degli altri paesi, ridurre ogni questione di merito, come quelle energetiche, come quelle dei servizi pubblici, a una questione di conta a chi si fa un favore e a chi si fa uno sgambetto in politica, è figlio, per quello che mi riguarda personalmente, rispettando l'opinione di tutti, di una concezione tribale, arcaica, da anfiteatro Flavio della politica italiana, ed è il suo peggior difetto in questi ultimi 17 anni dei tempi di Tangentopoli e anche prima. A dire la verità, non è solo un difetto della Seconda Repubblica, secondo me oramai è diventato un difetto paradossale, perché media e politica si rincorrono nel peggiorarlo. Per questo ogni questione di merito diventa secondaria, per questo non si può più parlare con una questione metrica e fattuale condivisa dei fenomeni, tutto diventa a chi stai facendo un favore o un dispetto, e secondo me questo è un veleno sottile che corrode la democrazia. La democrazia è poter parlare dei fatti distinguendoli dalle opinioni, è molto difficile farlo nelle informazioni, ma sui fenomeni fisici o nella descrizione di una realtà societaria o nella descrizione di quali sono le forme attraverso cui si esercita un servizio pubblico, o si distinguono i fatti dalle opinioni, oppure se tutto diventa convenienza politica è tutta una notte grigia in cui comanda solo chi vince le elezioni una volta ogni 5 anni e ogni questione di fatto e di fondo si piega alla sua convenienza. La prossima telefonata, vediamo un po' chi c'è. Manuel che chiama da Milano, prego Manuel. Sì, buongiorno Giannino. Volevo fare una domanda a riguardo del nucleare, il quesito sul nucleare. Allora, premesso che per quello che riguarda l'acqua ho le idee piuttosto cristalline, essendo appassionato lettore di Chicago Blog e del lavoro di Stagnaro che ha fatto a proposito dell'acqua, però sul nucleare avevo un dubbio, cioè alla luce dei recenti sviluppi, mi riferisco all'approvazione della legge Omnibus, Cassazione che si esprime sull'ammissibilità o meno del quesito, sul trasferimento del quesito, sulla modifica del quesito. Ecco, volevo chiedere in buona sostanza, ma i cittadini italiani, a proposito del nucleare, su cosa particolarmente sono chiamati ad esprimersi? Questa è la mia domanda. Se ha letto il nostro www.chicagotrenoblog.it, e io invito tutti coloro che volessero ulteriormente documentarsi a farlo, perché sull'acqua siamo diventati per cifre sul web il punto di riferimento del dibattito del no in queste settimane. Ha letto che noi abbiamo fatto un approfondimento grazie alla dottoressa Serena Sileoni esattamente sulla sentenza con cui è stato confermato il referendum. La sentenza con cui è stato confermato il referendum, malgrado le modifiche fatte dal governo, personalmente non mi ha sorpreso, perché la Corte Costituzionale già in passato aveva dato una sentenza interpretativa in materia di quesiti referendari una volta ci fosse stato un successivo intervento da parte dei governi in carica per tentare di evitarli, e la Corte Costituzionale aveva chiaramente indicato di abbracciare una tesi che, per quanto discutibile, è una tesi sostanzialista, cioè nel caso in cui a giudizio della Corte la norma non fosse stata chiaramente abrogata, perché questo è il senso che deve avere il rigetto di un referendum già indetto, solo nel caso in cui il governo venga davvero incontro alle istanze dei proponenti di un referendum, decade il referendum già indetto. La Corte aveva detto, quando non ci sia questa esplicitissima premessa nell'intervento del governo, la Corte conferma il referendum. È quello che è avvenuto, ma rispetto alla questione di merito, il quesito del referendum si riferisce, grazie a questa traslazione un po' impropria della sentenza interpretativa della Corte, si riferisce a due cose che in realtà, con la scelta o meno di realizzare centrali nucleari, non sono direttamente attinenti, perché uno è relativo alle condizioni interne internazionali, compresa la ricerca, per essere chiari, di tutto ciò che riguarda il nucleare, e da questo punto di vista, quindi diciamo è un'espressione un po' lata. La seconda è addirittura, si riferisce invece la seconda norma al piano energetico, e quindi sembrerebbe, se dovessimo prendere alla lettera la vittoria di un sia l'abrogazione qualora ci fosse il quorum, che poi a quel punto è il piano energetico in quanto tale che non può essere redatto. Ripeto, quello che è prevalsa è un'interpretazione sostanzialista, questo consente quindi ai proponenti di dire: non guardiamo tanto alla natura tecnica della sentenza della Corte e del tipo di quesito, quello che conta è che sarà un sì o un no quando ci sia il quorum a il fatto di avere centrali nucleari o meno. Questa è la risposta tecnica che io mi sento di dare. Giuseppe, che chiamo da Roma, prego Giuseppe. È pronto, buongiorno a tutti quanti. Io volevo parlare del nucleare, volevo dire che l'alternativa al nucleare è il petrolio e il carbone, perché sono fonti che danno continuità nell'erogazione dell'energia elettrica. Quindi quando la propaganda per il sì contro il nucleare parla di eolico, parla di fotovoltaico, non dice che sono dei complementi e che nella sostanza le alternative vere sono comunque delle fonti estremamente inquinanti e che determinano anche effetti ambientali pesanti. Io andando a votare mi asterrò sul nucleare comunque. La mia opinione, molto sinteticamente, la questione energetica varrebbe puntate e ne abbiamo fatte tante, ma è che sia sbagliato anche per me, che sono un sostenitore del no all'abrogazione del quesito sul nucleare, della norma sul nucleare, come lo sono stato e l'ho sempre ricordato nel referendum precedente del 1987, che considero una sventura per le conseguenze economiche e scientifiche che ha avuto per il nostro paese. Questo è il bis dal mio punto di vista. Però malgrado questa premessa, io devo dirle che non considero affatto in alternativa il ricorso a una percentuale di nucleare per soddisfare il fabbisogno energetico nazionale e per riequilibrare il nostro mix. Non lo considero affatto alternativo innanzitutto alle rinnovabili, che dobbiamo crescere come percentuale e che ci costano molto, perché dimentichiamo sempre di dire che gli siamo 10 miliardi di euro per i prossimi 10 anni, e che anche su questo c'è una grande menzogna pubblica quando si dice: ah, il governo ha tagliato il sostegno alle rinnovabili. Il governo ha sbagliato nei tempi e nei modi, perché ha fatto venire il terrore a tutti coloro che hanno investito per parecchi anni, per i prossimi anni a venire, nel settore. Dopodiché, dopo poche settimane di buco, ha ridimensionato, secondo me, un eccesso di contributi alle rinnovabili, riallineandole a quelle invece praticate da paesi che sono molto più avanti di noi, come la Germania e come la Spagna, cioè paesi che hanno rivisto i contributi al alle rinnovabili. Detto questo, il mix non è di alternativa, ma il mix è complementare. Il problema è che senza nucleare di qui a 10 anni, e non lo avremo secondo me se passa il quorum e vince il sì, quello che è inevitabile è che noi faremo ancora più ricorso e più dipendenza dal gas e dovremo aumentare molto la quota del carbone. È vero che il carbone oggi con i filtri di abbattimento ha dei problemi di emissione molto più contenuti di quanto non fosse la tecnologia delle centrali a carbone tradizionali, ma una cosa è sicura: noi non abbiamo carbone, non abbiamo gas, non abbiamo petrolio, quindi il nostro problema storico, accentuato dalla scelta dell'87 di dipendenza e di maggior costo, quindi del nostro kilowattore, si accentuerà. Non in maniera tragica, dicono coloro che invece sono contro il nucleare, comunque si accentuerà, ed è già tra il 30 e il 40% superiore a quello dei nostri competitor, che hanno più autonomia e più bilancio nel proprio mix energetico, che sono forti nel carbone e che lo accentueranno ulteriormente nel frattempo che crescerà la quota di rinnovabili, come fa la Germania. Sentiamo ancora Enrico, che chiama dalla provincia di Como. Prego Enrico. Buongiorno signor Oscar Giannino, prima di tutto complimenti, la seguo sempre con attenzione, è una persona molto efficace ed efficiente nei commenti, supporta con dati, fa poca demagogia. No, venga al punto, perché sennò poi dicono che le scegliamo apposta, io non sapevo. No, detto questo, che ho una grande stima di lei, ma ipotizzando l'evento straordinario di cui tutti dubitiamo che il nucleare un giorno in Italia passi, ma lei è convinto, e io non lo sono, che in un paese come il nostro si possa davvero fare una centrale nucleare? Io ho dei fortissimi dubbi. Seconda e ultima domanda. Mi dice perché? Ma mi dice perché? Il suo dubbio qual è di preciso? Dottor Giannino, cioè qui per fare l'alta velocità ne abbiamo visti di tutti i colori. Ho capito. Era quello dove volevo arrivare. comunque. E la seconda domanda, a parte che più o meno ha risposto alla telefonata precedente, lei come farebbe un piano energetico serio in questo paese? Grazie, buona giornata e tanti auguri. Enrico, seccamente, la mia opinione, io capisco tutti coloro che obiettano così, perché sono scoraggiati rispetto alle difficoltà di un paese che non ha tempi certi per la realizzazione di opere, che ha impugnative amministrative di ogni tipo, che non ha una clausola nazionale di supremazia sulle opere pubbliche energetiche e sulle infrastrutture di trasporto e sulle infrastrutture di distribuzione dell'energia come delle telecomunicazioni, una clausola di supremazia nazionale, quindi consente a ciascuno di impugnare veti e di far saltare tutto. Io però mi chiedo se noi dobbiamo rassegnarci a questo o se invece dobbiamo seguire l'esperienza di tutti gli altri paesi avanzati, nella convinzione che l'Italia può e deve continuare a essere un paese avanzato. L'obiezione a una infrastruttura complessa come una centrale nucleare vale per qualunque tipo di infrastruttura complessa. L'obiezione chi dice ma ci sono le cricche, ci sono i circoli di costruttori truffaldini fuori dalla legalità che risparmiano sul cemento, e cioè tutte le vicende che sono confermate dalle tragiche cronache di questi anni, anche dalle indagini post terremoto, non valgono solo per le centrali nucleari, come sento in queste settimane, dovrebbero valere per qualunque tipo di centrali, per qualunque tipo di impianti. E questo è il paese che vogliamo? No, noi possiamo credere, io voglio credere in un paese che faccia di sistemi complessi e delle tecnologie avanzate qualcosa di realizzabile anche da noi, anche per una tecnologia che di quelle costruite, affinate, evolute nel tempo proprio per avere a che fare con rischi intrinseci ed estrinseci, cioè astocastici come quello dello tsunami, particolarmente rilevanti perché abbiamo un problema, visto i tempi di decadenza dei radionuclidi, dei radioisotopi, cioè delle sostanze radioattive con cui si ha a che fare quando ci sono procedimenti di trasformazione energetica di questo tipo. Io credo che all'Italia, che era un faro, era antesignana, era l'avanguardia in queste tecnologie, in queste centrali, siccome lo è stata, non nell'altro secolo, 200 anni fa, voglio dire, ma nell'altro secolo, quello che ha alle nostre spalle da poco, non abbia smarrito né la capacità tecnologica né la capacità di realizzazione di impianti, di strutture eccetera per farlo, e che sia sbagliato diffidare della complessità tecnologica e infrastrutturale come una parte culturale dei sostenenti questi quesiti invece fa, perché è convinta che sistemi complessi, tecnologicamente complessi e quindi gestibili solo da elite, per essere chiari, propongano un modello di sviluppo a centrato, elitario, antidemocratico. Credo che questa sia una delle componenti post-francofortesi della critica della modernità radicale, che ho imparato a conoscere nella seconda parte del Novecento come elemento contraddistintivo della, per me, crisi dell'Occidente, ma comunque della cultura dell'Occidente. Ma io sono dichiaratamente avverso a quello, perché credo che il progresso si faccia anche attraverso gli errori, e gli errori consentono di affinare la perfezione, che non è mai perfetta, ma la perfezione asintotica dei sistemi tecnologici complessi. Anche in Italia si può fare nella legalità. Io credo che questo è ciò che noi ci serva per crescere, dal nucleare a tutto il resto, per ogni opera che non si realizza. Giuseppe da Roma? Prego Giuseppe, da Roma, mi sente? No. Forse l'hanno messa in linea due volte. Ah, l'hanno messa in linea due volte. Aspetti un secondo, allora, che andiamo in pubblicità e tentiamo di risolvere il problema. Eccoci tornati in studio per questa seconda puntata dedicata conclusivamente ai quesiti referendari. Molto forte tra gli sms pervenuti al 349-238-6666 la parte di coloro, il numero di coloro che sostengono che sono un ipocrita, perché decidendo di partecipare al voto so perfettamente che do una mano alla controparte. Molti mi accusano di essere diventato partigiano democratico, mi viene un po' da sorridere. Alcuni mi chiedono ma come, non sei d'accordo con Franco De Benedetti che scrive oggi sul Sole? Franco De Benedetti è un amico carissimo, decide di astenersi. Io ripeto, continuo a comprendere la posizione di tutti, prego però non bollatemi come ricercatore di bolli politici. Mi sono impegnato in un comitato del no. Credo che non sia improprio se chi si impegna per un comitato del no accetta non solo di andare a votare, ma di fare campagna aperta, sia pur su quesiti che non condivide per come sono formulati, su questione di fondo del paese. Poi ripeto, è legittimo che molti di voi prevalga la posizione politica pro o contro il governo, non voglio rilasciare dichiarazioni politiche perché non credo che vi interessino, per me la questione è un'altra. Basta però che ci si rispetti tutti. tutti. Poi altri messaggi, per esempio Salvo dice: ma perché non fai notare che negli ultimi 10 anni l'uranio è passato da 5 a 50 dollari la libra? Poi aggiunge: so benissimo che l'uranio pesa solo per il 10% del costo di gestione delle centrali, però insomma anche l'uranio comporta qualche problemino perché non ce l'abbiamo. Verissimo, però tu stesso riconosci quello che lo stesso Ermete Realacci ha detto ieri: l'uranio, le centrali a fissione con l'uranio hanno enormi costi di realizzazione, bassissimi costi comparati di gestione, e poi il problema delle scorie dopo. Questa è la caratteristica comparata di costo rispetto a qualunque altra fonte energetica. Sentiamo qualche altra telefonata, cominciamo con Alberto che chiama da Rimini. Prego Alberto. Buongiorno Oscar, grazie per l'opportunità. Semplicemente due cose molto veloci. La prima, io non andrò a votare perché ho fatto un calcolo e mi sono reso conto che se ci dovesse essere se ci dovesse raggiungere il quorum perderemmo, per cui è un altro modo per dire no alla cancellazione delle centrali nucleari. L'altra cosa è che nel momento in cui un governo prende una decisione, come diceva lei, interviene prima il TAR e poi il Consiglio di Stato, è un problema semplicemente di certezza delle decisioni, e purtroppo in Italia questa certezza non c'è, e non c'è stata per gli ultimi 50 anni e probabilmente, se continuiamo così, non ci sarà per i prossimi 50 anni. È quello il grosso problema: non c'è certezza nelle decisioni. Dopo, giustamente, come ha ripetuto lei più volte anche in altre trasmissioni, da fuori d'Italia non vengono a investire, e questo ovviamente è un altro problema, ma che si può comunque incrociare con i problemi che stiamo vivendo adesso: la costruzione di centrali nucleari, di rigassificatori, di Porto Tolle con la sua centrale a carbone, se non sbaglio. È un problema generale, purtroppo, che si manifesta nel fatto che manca la certezza della decisione. Tutto qua, secondo me. Grazie ad Alberto. Molti mi chiedono poi di tornare sulla formulazione del primo quesito sull'acqua dopo la polemica di cui sono stato protagonista, fino a che non mi hanno levato l'audio però e non ho potuto spiegare le mie ragioni. Due sere fa ospite da Ballarò da Floris. Ricordate che la polemica era su un cartello esibito alla trasmissione di Floris in relazione al primo quesito sull'acqua. Il cartello conteneva una esplicita dizione per la quale il quesito propone l'abrogazione di una norma che obbliga la cessione del servizio idrico ai privati. Era testualmente formulato così il cartello. Quando Floris mi ha chiesto l'opinione per illustrare la posizione del no, io gli ho chiesto di leggere testualmente il cartello. Dopodiché, malgrado io conosca e stimi Floris da una vita, da prima che diventasse conduttore televisivo, deliberatamente ho accentuato la polemica dicendo: questo testo vede, ai miei occhi, rappresenta il problema numero uno della campagna referendaria, perché il testo è falso e mistificatore. Floris è andato in difficoltà, poiché abbiamo buoni rapporti non se lo aspettava ed era evidente dagli occhi, mi dispiace anche averlo fatto nei suoi confronti. Dopodiché, nel convulso succedersi di opinioni, Floris ha sostenuto che norma alla mano, che però non ha letto, ha fatto vedere di fronte alla telecamera ma non ha letto, che la norma in questione è esattamente come il cartello la sintetizza. Bene, anche ieri sera l'onorevole Bersani, ospite di Santoro, ha detto testualmente che il primo quesito obbliga il pubblico alla cessione del servizio idrico ai privati. Continuo ad affermare, nella piena e totale consapevolezza di quello che dico, che si tratta di un falso deliberato per sviare e mistificare la campagna referendaria e indurre chi non conosce i testi normativi a credere che si tratti di questo, cioè di una svolta obbligata per legge a favore esclusivo dei privati. Non è così. La norma in questione, di cui si propone l'abrogazione, esprime, aderendo alla linea della direttiva comunitaria, l'obbligo a indire gare di evidenza pubblica per affidare la gestione del servizio. A questo obbligo si può derogare a particolari condizioni con la permanenza della gestione del servizio in house da parte del pubblico senza gare, eccezioni che vanno anche autorizzate dall'antitrust. E a tale proposito, per il pubblico che vuole continuare nell'affidamento diretto senza gara, il testo prevede che in quel caso si scenda nella quota fino al 40%, ma con la gestione che resta al pubblico e per il resto questo con una partecipazione di privati, con la gestione che resta al pubblico, questo prevede la norma, e in caso invece di società quotate, al cui capitale quindi partecipano anche i privati, ma nel caso italiano sempre a controllo pubblico, cioè sempre con il pubblico che nelle private quotate ha il diritto nelle assemblee di continuare a esprimere la maggioranza dei consigli di amministrazione, di far scegliere la quota residua della parte pubblica nelle quotate fino al 30%, che è la quota con la quale oggi in Italia si continua a esercitare il controllo di una società quotata, tant'è vero che non a caso è la quota oltre la quale bisogna lanciare le OPA obbligatorie quando ci sono le scalate. Quindi chi sostiene che il primo quesito dell'acqua obbliga alla privatizzazione, alla cessione della gestione del servizio idrico ai privati, mente deliberatamente sapendo di mentire. 1. 2. Non c'è affatto scritto altro che il pubblico, se decide di non fare la gara e di continuare nella gestione in pubblico, deve aprire il proprio capitale ai privati senza perdere il controllo. Su questo mi scommetto la testa, tutto quello che volete. Chi dice il contrario, mi dispiace, mente. Allora, detto questo, Enrico che chiama da Modena. Prego Enrico. Buongiorno Oscar. Complimenti per la trasmissione, sarò breve. E la mia provocazione è questa, sul nucleare e sulle energie. In un paese come l'Italia, dove comunque siamo da anni fuori dal nucleare, non ha più senso investire tutto quel denaro pubblico e anche privato in università, visto che siamo pieni di università che fanno ricerche anche assurde e perdono tempo, investire tutte le nostre energie su un sistema energetico nuovo da poter anche esportare come modello, perché noi ci andiamo a caricare con il nucleare di un modello vecchio, di un modello che sa benissimo legato comunque anche al bellico, perché comunque il nucleare nasce da via Panisperna col progetto Manhattan, che poi viene sviluppato con la bomba atomica. Questo non vuol dire che l'Italia si vuole legare al nucleare per un discorso militare, ma voglio dire, tutte queste risorse che andiamo a investire, non ha più senso dire a tutte le università italiane facciamo un progetto innovativo con tanti soldi e nel giro di 15 anni, invece di trovarci con una centrale di vecchia tecnologia, riusciamo a proporre qualcosa di veramente nuovo. Enrico, abbiamo dedicato una puntata apposta la scorsa settimana a questo annuncio, di cui siamo tutti in attesa di capire meglio i particolari, di questa impresa fatta in Grecia però da un imprenditore italiano dal passato un po' discusso, in collaborazione con scienziati che hanno lavorato sulla fusione fredda da molti decenni nelle università italiane. Questo imprenditore, che si chiama Rossi, ex protagonista della vicenda di Petrol Dragon, ha annunciato che stanno già producendo catalizzatori in serie per una centrale, per un reattore da 1 megawatt entro la fine dell'anno con fusione fredda. Non sono per niente in disaccordo, sono totalmente in accordo con questo. Dico semplicemente che rimanere appieno nel solco delle tecnologie e della produzione di nucleare da fissione, seguendo l'evoluzione delle tecnologie e della sicurezza in questi decenni, avrebbe fatto bene all'Italia, bene al suo mix energetico, bene alla sua bolletta energetica. Con ogni probabilità lei ha ragione, oramai è un'occasione perduta per sempre, e mi dispiace molto che chi in questi anni è stato al governo ha trattato la vicenda in una maniera tale che, al netto di Fukushima e di quello che ha rappresentato nella speculazione dell'informazione internazionale, dico speculazione perché non c'è niente di paragonabile a Chernobyl, nemmeno nelle grandezze dei rilasci di sostanze radioattive, malgrado la gravità delle incidenze, non c'è ancora un morto a Fukushima, vi informo, e anche se questo vi farà sobbalzare direte che sono un pazzo, ma è così. Detto tutto questo, al netto di Fukushima, questa vicenda andava trattata con un rispetto e una delicatezza migliore, per evitare che a qualcuno venisse in mente per l'ennesima volta di fare il bis di Chernobyl. Quindi siamo oramai fuori dal nucleare, con ogni probabilità sì, ci siamo e ci resteremo da fissione, non fa bene la nostra economia, non fa bene la nostra scienza. Quanto poi a nucleare di tipo diverso, non vedo l'alternativa, e io mi batterò sempre anche per quello, con grande attenzione a misurare naturalmente verificabilità dei dati, perché per esempio su questo progetto abbiamo fatto apposta la trasmissione, ancora nessuno è in grado di capire, anche se alcuni scienziati internazionali dicono che è abbastanza attendibile che vi sia fusione nucleare fredda con produzione positiva nel bilancio energetico del processo trasformativo. Lucio che chiama da Verona, prego Lucio. Sì, buongiorno. Ci sono delle notizie che non passano mai, no? In Germania c'è stato uno studio sanitario fatto dall'Istituto Superiore di Sanità, come quello che in Italia, ha dimostrato che nell'arco di 5 km di una centrale nucleare le leucemie nei bambini sono il doppio rispetto ad altre zone. Queste sono notizie che non passano mai, no? E questo, caro Giannino, per cosa? Per mantenere gli sprechi di questo paese immondo, gli sprechi, le guerre di questo paese? E poi sa che dare in mano ai privati lo smaltimento delle scorie, l'acqua in mano ai privati, sono su quei privati che hanno in mano le cliniche Santa Chiara, che per far soldi operavano i polmoni della gente? È questo che vogliamo? Sono questi i bravi privati, signor Giannino? Questi lazzaroni sono i privati così bravi che hanno fatto le operazioni per guadagnare soldi? Diamo in mano l'acqua e il smaltimento delle scorie a queste brave persone? Ma per mantenere questi sporchi privilegi i vostri stipendi, magari, caro signor Giannino? Ma finiamola, scusi, finiamola e risparmiamo, non facciamo più le guerre, smettiamo di spendere soldi in armamenti e risparmiamo e non facciamo e non massacriamo il territorio con queste porcherie. Grazie, buongiorno. Grazie a lei. Il mio stipendio, guardi, non lo paga lo Stato, delle inefficienze dell'acqua in Italia è al 97% lo Stato, perché al 97% sono soggetti pubblici che gestiscono il servizio idrico, del fatto che il 30% degli italiani, cioè 18 milioni, riversi acqua in mare senza depuratori è al 97% naturalmente responsabile lo Stato, del fatto che metà di loro, cioè 9 milioni, non abbiano ancora fogne dignitose di livello europeo è responsabile lo Stato, quindi io la invito a prendersela con lo Stato, che è responsabile di tutto questo. Il mio stipendio non lo paga lo Stato, quindi lei non difende, io non difendo il mio stipendio dicendo no all'acqua di Stato e dicendo no a una tecnologia di cui secondo me avremo grande bisogno. Quindi se secondo lei i privati che non ci sono nell'acqua se non per il 3% sono responsabili di tutto quello che non funziona, rispetto al suo punto di vista, perché meramente, e dal mio punto di vista non posso condividerlo, ideologico, punto, come è stata il più di questa campagna. Allora, una cosa è sicura, ieri per Ermete Realacci non è arrivato uno di messaggi, diciamo, di quelli che ora vi leggo, per me ne arrivano molti, e questo non c'è dubbio, Ermete è sicuramente meno contundente. Per esempio, messaggi del tipo: che marea di cazzate stai dicendo, caro Oscar, vatti a respirare un po' di amianto e vedi che anche in quel caso qualche annetto forse vivi ancora, e comunque a Fukushima qualche morto c'è già stato. No, non c'è stato, se no vi garantisco che lo avreste visto, e come, su tutte le pagine internazionali. Oppure, non lo so, sei come Brunetta il nano, forse ve ne intendete di economia, e dico forse, per il resto state zitti perché dite solo stronzate. Sono molti i messaggi così. Va bene, non riesco a capire bene quale sia il succo di queste cose, ma comunque. Sentiamo Giovanni, che ci chiama dalla provincia di Torino. Prego, Giovanni. Ma io ho sempre sentito parlare certe persone che queste centrali nucleari sono sempre sicure, se c'è un terremoto non succede niente, se cade un aereo non succede niente, se cade un meteorite non succede niente. Abbiamo visto a Fukushima, che è il primo maremoto, centrale di questo tipo che arriva al mare, al primo tsunami sono andate in tilt provocando i guai che hanno provocato. Se gli scienziati intelligenti, quelli che non sparano parole a raffica, dicono che le centrali bisogna aspettare un momento per renderle intrinsecamente sicure, nel senso che si autospegnono quando i parametri fisici vanno fuori dalla norma. Quindi se non ci sono ancora queste centrali, aspettiamo, facciamo una ricerca in modo che arriviamo a quella situazione. Giovanni, sono completamente d'accordo, le ricordo solo come dissi, io sono stato il primo giornalista che ha fatto un esame quando erano passate 12-18 ore dallo tsunami e dal sisma, che non è il primo tsunami, cioè stiamo parlando di un sisma di grado 9 Richter, quindi insomma una cosa di quelle molto molto molto molto molto violente, molto intense e ben presenti in quella parte del pianeta per la tettonica oceanica che c'è lì vicino. E detto questo, però, stiamo parlando di una centrale il cui progetto originale General Electric risale al 1957 e mai più poi modificata in termini tecnici dopo il 1962-63. Questo risulta dalle specifiche tecniche consultabili alla TEPCO. Quindi le tecnologie di sicurezza sono state innovate, dichiara la TEPCO, negli anni 70 e 80, ma in realtà realtà il tipo di impianti per fronteggiare ciò che si è verificato con lo tsunami, cioè generatori diesel per il raffreddamento delle barre di combustibile, è rimasto allo stato di 25-30 anni fa. Allora, questo è un incidente al nucleare, non di nucleare. Io sono d'accordo con lei che la sicurezza è la frontiera più avanzata sulla quale il resto dei paesi che ha continuato nel nucleare dopo Chernobyl, senza che si siano verificati eventi di questa portata, senza, con milioni e milioni di ore di energia prodotte, ecco, il resto dei grandi paesi e dei paesi emergenti che stanno costruendo centrali a fissione continuerà su quella strada, esattamente quella che dice lei, noi ne saremo esclusi. Ermanno da Brescia, prego Ermanno. Buongiorno signor Oscar, lei che dà del bugiardo agli altri è bugiardo se stesso, perché se non conosce il francese, la Francia ha dichiarato che quello che sta succedendo a Fukushima è inquietante e l'ha detto una nazione che è all'avanguardia come nucleare. Se ha usato la parola inquietante vuol dire che non sanno a che livello andremo a finire. Buongiorno, signor Bugiardo. Non ho commenti da fare, la Francia in quanto tale non esiste, perché la Francia, non è che, chi l'ha dichiarato? Il presidente francese? Chi l'ha dichiarato? E di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, guardi, senza che mi dia del bugiardo, si scaldi, non do del bugiardo a nessuno, dico che quando c'è un quesito che viene presentato per ciò che non è scritto nella norma, è mio diritto dovere di dire che la norma è un'altra. Detto questo, signor Bugiardo, la Francia che dica che la prospettiva è inquietante, guardi, l'aggiornamento da parte dell'Agenzia di Sicurezza Nucleare giapponese, che incalza la TEPCO, che ha, non ha detto le cose chiare, cioè la società che gestisce la centrale di Fukushima, settimana per settimana e mese per mese, ci ha fatto capire nel tempo che siamo in presenza di processi di fusione delle barre di due o tre dei reattori tra i sei dell'impianto, e la questione è, rispetto a quella fusione, la tenuta delle vasche di contenimento che le separano dal terreno sottostante. Questo è ciò che si monitora ogni giorno. Con eventi come Chernobyl non hanno niente a che vedere come scala di grandezza, impatto sul territorio, sul mare limitrofo e sulle popolazioni, e come grandezza fisica proprio paragonabile dei rilasci. Se lei crede che questo sia bugiardo, non so che cosa dire. Io continuo a leggere e studiare quello che dicono i numeri. Alessandro da Torino, rapido. Sì, buongiorno. Io sono uno studente di ingegneria a Torino, ho 24 anni e... A parte quando volevo fare una piccola nota su quelli che mandano messaggi su chi è un paladino della sinistra e chi va a votare no. Se uno è un paladino della sinistra, chi va a votare no, allora perché hanno messo la casella no? Cioè, nel senso, allora tanto vale che chi vuole esprimere un no non vada a votare. Sono molto d'accordo con lei, ma per carità. Risparmiamo carta. Comunque, il problema è un altro. Io volevo fare una piccola premessa. Nei nostri dipartimenti, nelle università, è pieno, zeppo di progetti, ricerche su milioni, migliaia di tipi di energie, come sfruttare anche le patate per tirare fuori energia. Allora, la mia domanda è un'altra. Io sono per il nucleare 20 anni fa, cioè... È un treno che abbiamo definitivamente perso. Nell'87, probabilmente lei ha perfettamente ragione, l'ho già detto. Però esatto. Oggi, dice lei... Oggi è come, noi siamo alla macchina da scrivere, gli altri si stanno aggiornando ai microprocessori, noi vogliamo aggiornarci ai Pentium 1, tanto per fare un paragone semplice. Alessandro, io credo che referendum o non referendum le cose andranno esattamente così. Noi abbiamo saltato le macchine per scrivere elettriche, cioè avevamo quelle manuali, eravamo i primi nel mondo su quelle manuali dal punto di vista delle centrali a fissione, le abbiamo saltate, abbiamo saltato il passaggio ai primi PC, quelli grandi, e con ogni probabilità resteremo fuori da quello, e con ogni probabilità ha ragione lei, bisogna che ci concentriamo, visto la maniera in cui la politica e gli attori del dibattito referendario continuano a insistere sugli errori dell'87, e ci concentriamo su quello che ci avete nelle vostre università. Sono così realista da ammetterlo. Detto questo, però, siccome nell'87 ho creduto, rimanendo in minoranza, che fosse un grave errore l'emotività, continuo a crederlo oggi, quindi è stata una testimonianza il mio impegno sul nucleare. Diversa è la questione dell'acqua. Bene, la trasmissione è finita, pensateci ancora domani se andare a votare o meno. Io rispetto i punti di vista tutti, guardate, non insulto proprio nessuno. Oggi ho visto che parecchi invece mi avete preso a sberle, tra i lettori della destra credono sia convinto di fare chissà che andando a sinistra, e direttori della sinistra che dicono che sono un bugiardo. Va bene, d'accordo, però i numeri sono i numeri e le norme le norme. Voglio un paese che su questo non menta, né nell'informazione e né nella politica. Poi ciascuno di voi è libero di fare come vorrà. Buon referendum o non referendum a tutti, ma uniti in un paese che rispetti numeri e norme. Grazie e appuntamento a lunedì.